La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Cara Barbara, ma come fa uno a diventare di colpo Mr. Hyde dopo che era stato il ragazzo più innamorato che io abbia mai visto? Raccontarti gli sgarbi che mi ha dedicato nell'ultimo anno sarebbe lunghissimo. Ti accenno solo che mi dava un appuntamento per il weekend in un certo albergo, abitiamo in città diverse, e dopo aver percorso 600 chilometri in treno mi mandava un SMS. Scusa, sono stato trattenuto. Oppure mi faceva andare nella sua città e si presentava con un muso fino a terra e mi liquidava dopo un caffè al bar. Tutto questo proclamando per me un amore senza confini. Alla fine l'ho mollato con scena madre. Beh, dopo un mese mi ricorre dietro con la lingua di fuori, me lo trovo all'uscita della facoltà e dice che mi trattava male, ma non era contro di me, anzi nemmeno se ne accorgeva. Era depresso. Ornella. Beh, senti, però anche tu l'avresti dovuto capire prima che i suoi erano i segnali di uno che non ti sopportava più. Oh, questo, pazienza, succede. Salvo che sarebbe più pratico e pietoso che uno dicesse vattene fuori dai piedi e non se ne parla più. Ma fra le sevizie che si possono subire, a me una cosa che mi fa ammattire di rabbia è quando il carnefice ti dice che manco l'ha fatto apposta, che non era contro di te. Quindi non ti riconosce nemmeno la dignità di bersaglio delle sue prepotenze. Ti cancella perfino come vittima. Lui se ne va con la sua falce da morte nel mondo, distrattamente, indo coie coie, e guarda caso coglieva sempre te però. Io ho rotto un'amicizia per questo. Un amico una volta mi ha fatto attraversare il mondo promettendomi una vacanza e un'ospitalità piena di affetto, non ci vedevamo da tanto, e poi io mi faccio 10.000 chilometri, che poi non prendo mai l'aereo, uno sforzo titanico, scendo e da subito trovo un nemico. Uno che sembrava ma avesse fatto attraversare il mondo soltanto per umiliarmi. Io di solito quando mi trovo con le spalle al muro salto dalla finestra e fuggo a qualsiasi costo. E invece lì mi sono trovata prigioniera. Avevo pochi soldi, il biglietto non si poteva cambiare. E quando sono esplosa gli ho detto, beh, senti, insomma, c'è stato un re d'azione, lui ha fatto come il tuo ragazzo. È caduto dalle nuvole. Ah, io t'ho trattato male. Ah, ma sai, io sono depresso. Manco me ne sono accorto. Mica ce l'ho con te. Per me siete tutti uguali. Oh, con gli altri però era gentilissimo. Allora io ho rotto mandandogli questa poesiola. La martellata in faccia è stata tosta. Ma lo so, sai, che non l'hai fatto apposta. Accidenti però, hai una mira eccellente. Senza pensarci mai spaccato un dente. Lo so che non volevi farmi male se mi hai mandato dritta all'ospedale. E che manco mi vedi. E non ti accorgi che mi sfrangi i piedi con la ruota del tuo ciclomotore. E io, maleducata, che grido dal dolore. Lo so che tu non c'entri niente, che stai coi tuoi pensieri e sei innocente. Se però vuoi sentire la mia risposta, preferirei che lo facessi apposta. Se mi distruggi a colpi di bastone, credi amico, c'è più soddisfazione o se mi spezzi con il karate che tu voglia far male proprio a me. Se all'odio tuo devo pagare il pizzo, voglio essere proprio io, col nome e l'indirizzo. Più offende che l'offesa sia compiuta come ad una formica sconosciuta, che viene schiacciata senza farci caso per una impersonale mosca al naso. Che tu lo faccia apposta oppure no, non ti offender però. Se io invece farò apposta, quando ti vedo a scappar fino ad Aosta, non avertene male, non prenderlo al din giù. Io non ti voglio vedere mai più. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Siamo sposati da 20 anni. Di me è sempre stato molto innamorato, ma tra noi il sesso è sempre stato un po' problematico. Apprezza quello che faccio e spesso, dopo che i figli, 3, dormivano, facevamo l'alba insieme, in cucina, fumando come turchi, sereni, chiacchierando fitto fitto. Ma lui dice che quei periodi belli non li ricorda bene. Fra noi ora va così, che il sesso non lo facciamo. Lui ha un'altra e con lei dice che va bene. Non si vuole separare per via dei figli, dei mutui, eccetera, ma con lei non pensa di troncare perché ha trovato l'affinità che gli mancava. Perché lui voleva all'inizio le piccole attenzioni, ma io ero timidissima e mi vergognavo di fargli capire quanto lui fosse una cosa grande per me. Non sono mai stata la sua donna, ma solo un'efficiente collaboratrice domestica. Ho quasi 40 anni e mi vergogno tantissimo a pensare che ho avuto un solo uomo, lui, e mi piace anche. Chissà che magari prima che tu mi risponda il tempo cambi le cose o più sicuramente le lasci immutate, facendomi germogliare la speranza di un suo bacio, di una sua carezza, che ora riesco solo a sognare. 20:40, i ragazzi dormono. Lui non è con me. Sospesa. Bene, 20:40. I ragazzi dormono, lui non è con te. Non solo ti ha trasformata in una guardiana, in una vestale, ma ti ha pure lasciato credere che fosse colpa tua. Io non credo, sospesa, che sia colpa tua. Credo che tuo marito sia un vero incapace sentimentale, perché per la lettera che scrivi credo che chiunque al posto suo avrebbe fatto di te un'amante deliziosa. Tu sei una che dopo 20 anni di matrimonio e di questo mortificante matrimonio aspetta ancora la grazia di una carezza, di un bacio. Che disgraziato, cioè che rovinatore di talenti, pensa se ti avesse coltivata. E no, invece no, ha trovato più comodo fare di te la dispensiera, la crescitrice di figli, forse per non distrarti, forse lui è sicuro che l'erotismo alla buona massaia non serva. E intanto tiene sospesa non soltanto te, ma pure l'altra. Tu lo servi in casa, lei lo serve fuori. E intanto poi è sicuro, perché tu hai questi sensi di colpa, questo peccato originale di essere non esperta 20 anni fa, sospesa. Ma perché non te l'ha reso esperta lui? Perché nel sesso, sai, non bisogna mica andare a scuola prima, eh? Se metti in un letto due che si vogliono bene, se uno dei due è un po' più esperto, magari l'altro impara. A meno che il partner non sia un asino, come nel tuo caso, cioè nel caso di tuo marito. Zero in condotta amorosa, erotica e pure logica. La sera ti sistema nel pollaio, sbatte la porta e va a far piangere l'altra. Ma scusa, tu non hai 40 anni e mai hai provato con un altro? Guarda che potresti essere una grande amante, ma cambia uomo. Adesso. La guardiana del faro. Questo racconto che si svolge ai primi del Novecento si intitola Si va dalla norma e l'ho scritto io in un momento di responsabilità. Chi parla è un ladro d'albergo nascosto in un armadio. Ero nascosto nell'armadio. Aspettavo che l'uomo uscisse per ripulirlo d'ogni suo bene. Il mestiere di topo d'albergo affina la pazienza, ma i preparativi di quel vanitoso passavano il limite. Non la finiva mai di pettinarsi, studiarsi, non trovandosi mai sufficientemente bello per uscire, finché non seppi trattenere un sospiro afflitto che egli, per fortuna, non udì, preso com'era dalla sua immagine allo specchio. Dal mio spiraglio potevo vedere le boccette allineate davanti alla specchiera, che poi si versava in gocce prodighe sulla lingua per profumarla, sugli occhi per lucidarli, sulla bocca per sorridere. Finché si calcò il cilindro in testa e si guardò con quegli sguardi di raccapricciante vanità che solo la solitudine conosce. Eppure c'era qualcuno con lui che non riusciva a scorgere, cui l'uomo disse con un'ultima carezza al cilindro: «Sono pronto, si va dalla norma». L'altro, con voce nasale e maschia, gli rispose: «Io dalla norma non ci vengo. Tu vieni dove dico io, non hai mica le gambe, no? Oh, tu deridi crudelmente il mio handicap. E dove vorresti andare, se no?» Da Eugenia, pur non vedendolo, sentì la sua faccia sorridere di piacere solo al nome di quella donna. «Ti supplico, non andiamo dalla norma stasera». «E che ha la norma che non va? Non è bella, forse?» «Sì, ma non ci sa fare, forse?» «Sì, ma sono stufo di quelle che ci sanno fare». Vuol dire che non sanno fare niente, che non hanno idea di cosa sia il piacere. A te ti vanno bene, ti guarniscono il tavolo, fanno vedere quanto sei importante, ma a me non ci pensi mai tu. A me. L'interlocutore scoppiò in singhiozzi, mentre l'altro cattivo rideva. Piangi, piangi, tanto comando io. A questo punto la mia curiosità superò la paura d'essere scoperto. Aprii appena appena la fessura dell'armadio e vidi che nella stanza non c'era nessuno all'infuori dell'uomo e del suo sesso, col quale parlava, e quello gli rispondeva, come fossero stati due esseri differenti. Sedotto dalla stranezza, trattenevo il respiro, non più temendo che gridassero al ladro, ma che la mia presenza interrompesse il duetto. Il sesso, con voce appassionata, portami De Eugenia una sola volta, poi farò sempre come vuoi tu. Per una volta, non voglio essere maneggiato come una maniglia fatta in serie, voglio una donna che mi strapazzi come se ci fossi solo io al mondo. Ma insomma, cosa ti seduce in Eugenia? L'amore. L'amore, adesso. Mi diventi un vecchio sentimentale e non hai 40 anni. Il sesso, infuriato e fermo, equivoco grossolano, è che con l'amore si gode di più. Solo l'amore muove il meccanismo prezioso. Per l'emozione ebbe un mancamento di voce e disse in falsetto: l'erotismo! Gli tornò la voce, quello vero, non la sua contraffazione. Troppi problemi. Quella fa sul serio. E noi no. Noi? Mai. Per carità, io sono un uomo in fuga. Sono uno che mente. Un istante di autenticità e sarei perduto. E io sono stanco di entrare da quelle antipatiche sempre profumate. Ed è solo per lealtà che non ti abbandono del tutto. Che io della tecnica non ne posso più. A me piace. E una volta anche a te. Sì, una volta. Quando ero giovane, famelico, curioso, divorato dalla tua stessa ansia. Ma poi ci siamo allontanati. Non farmelo più fare spesso. Fammelo fare bene. Con qualcuna che non è lì per caso, ma che su tutta la terra vorrebbe stare solo con me, a farmi caldo. Senti, mi stai facendo diventare nervoso. La tua Eugenia mi costerebbe troppo. Cielo, ha forse un prezzo? La mia tranquillità. Ma chiudi il becco. Andiamo dalla Norma. È una delle tante. Ci fa stare allegri, niente problemi. Sii ragionevole. Quella, l'Eugenia, è capace di salvarci l'anima. E io non mi ricordo neanche più a chi l'ho venduta. Ma io... Tu piantala. C'è anche il proverbio. Il cazzo non vuole pensieri. Come mi conosci male. Io sono un pensiero. Come far fronte agli schiaccianti pregiudizi contro di me? L'odore di quella signora mi attira molto. Si sente che accomoda fiori nei vasi, che suda, che va a scuola di danza. Deve avere dei piccoli difetti deliziosi. Ti prego, fammeli scoprire. Ma guarda che gusti da rammollito che vai a tirar fuori. Ti piacciono le signore adesso. Hai l'ambizione della profondità. Che schifo. Ingrato. Io ti offro varietà, freschezza, grandi alberghi. Sì, lo so. Si dice testa di cazzo per significare lo scarso discernimento. Sapessi invece com'è sensibile la mia piccola testa. È vero, in gioventù mi piacquero i facili piaceri, ma ora dammi l'Eugenia. Porta sottabiti di raso un po' sciupato, grigio perla, e di certo sa come trattarmi. Vorrei che mi toccasse, e la bocca è impertinente. Tu non sai quanto mi piaccia quell'impertinenza nella bocca di una donna. Zitto, idiota. No, parlo. Tu, quando siamo andati da lei, mi hai tenuto sulle spine tutta la sera. Sentivi bene che premevo, che ti supplicavo, ma tu... Solo quando ero veramente esasperato, l'hai abbracciata. Vi siete appoggiati alla porta, le hai sollevato la gonna, un fiume di miele sulle tue dita, la cui fragranza mi raggiunse per le vie del tuo corpo come il più caro dei baci. Senti, credo che l'Eugenia mi ami. Non lo sopporto, è una visionaria. Ma che ti importa? Importa solo quel miele che le sue visioni fanno scorrere quando ti avvicini. Idiota tu, a non capire il mio discorso. Voglio la pienezza, voglio lo splendore, voglio l'Eugenia. L'uomo tacque, un silenzio. Il sesso proseguì con una sorta di ansiosa commozione. Ma tu sai cos'è l'attesa di una donna che ama? Andiamo a raccogliere i frutti del nostro fascino. Mi par già di vederla, col suo scialle verde. Tu dirai buongiorno e lei, come se già fossimo una cosa sola, emozionata, solo per noi. Per me vorrei dire, te in fondo non ti ha nemmeno visto. Hai poca memoria. Uff, storie intense, Dio ce ne guardi. Senti, dammi qualche speranza. Se andiamo da Eugenia, ti prometto che mi comporterò come mai nella mia vita. Ti darò delle gioie che non sospetti neppure. Bugiardo, ti conosco bene. No, bugiardo. Sei tu che menti. Io non mento mai. Io all'Eugenia potrei starle dentro 2-3 anni. Non essere ingenuo. Quella dopo ci tiene in suo potere. Ma io voglio starci. Sono nato per questo. Io no. E perché sei nato allora? Per far finta di non esserci. Povero amico, hai anche tu le tue ragioni. Dovevi essere attaccato a qualcuno che amasse la verità. E io d'altronde rimpiango spesso di non possedere un membro silenzioso e senza scrupoli. Non andremo più d'accordo noi due. Lo vuoi capire? Che ho paura della morte. Certi abbracci totali non fanno per me. Le somigliano. E il sesso, con graziosa modestia, rispose: non ho letto battaglie, io. Certe cose non le so. Io voglio l'Eugenia. Si va dalla norma. E se restassimo a casa? Tu e io? Soli? Giammai! Come on, give us more. You can ask anyone, so they'll answer with the other, other. Well, well, well, that's how rhythm was born. Si avviò con decisione verso la porta. Il sesso, con voce debole: aspetta, sappi che non ti obbedirò. Sì, invece, siamo troppo legati, tu ed io. Aiutami a passare un'altra notte senza di me. Io amo la superficialità, capisci? Come tu ami l'Eugenia. Follemente. Si va dalla norma e non farmi scherzi. Cos'è questo tono di minaccia? Se no che fai? Mi tagli? La porta si chiuse. Non potei sentire il resto. Why don't you give us some more? Ask any wonder, and they'll be glad to answer you so. They'll answer with the other, y'all, and that's just the reason that rhythm was born. That's how rhythm was born. La guardiana del faro. Voglio leggere delle poesie di Rachel Lindsay, che adesso mi sforzo a pronunciarlo come io immagino che sia corretto. Dentro di me lo chiamo amichevolmente Vakel, come scritto. Poeta americano che è vissuto tra il 1879 e il 1931. Quest'uomo tormentato e con un altissimo spirito religioso era nato a Springfield, nell'Illinois. Non era solo un poeta, è diventato anche cantastorie. E tutta la vita ha corso attraverso l'America a piedi o salendo su qualche camion o su lenti treni merci, viaggiando sul tetto. Non a caso fu molto amato dalla Beat Generation, perché più on the road di lui non c'è stato nessuno. Lui si era fatto vagabondo per diffondere la sua poesia, perché credeva che la bellezza avrebbe salvato il mondo e voleva dare una mano con i suoi versi. Era anche innamorato del cinema, erano i tempi d'oro del cinema muto, e aveva una grande fede in questo strumento come mezzo di educazione morale ed estetica. Lui aveva cominciato a scrivere a sette anni già con delle visioni religiose. E nel frontespizio dei suoi libri, invece del suo nome, scriveva: questo libro appartiene a Cristo. E da grande decide che andrà per le vie d'America a predicare la redenzione dell'umanità attraverso l'arte. Per lui l'arte è visione, e si ispira a William Blake e anche nei suoi disegni. A 25 anni ha la prima netta visione dei profeti, come nella poesia di Blake, che scrive: ieri i profeti Ezechiele ed Isaia desinavano con me. Questa era un po' la vita immaginaria e reale, poi, di Lindsay. Gira per l'America e le sue performance piacciono moltissimo. Comincia ad essere conosciuto. Poi la rivista Poetry, la illustrissima rivista Poetry, e anche grandi poeti lo notano. Purtroppo non ci sono film Almeno non li ho trovati, che testimonino della recitazione invasata e ritmata di Beccia Lindsay, perché lui, recitando i suoi versi, usava i tempi del ragtime, i ritmi spezzati. Le donne le idealizzava, come tutto il resto, e quindi diventa, nella sua gioventù e anche nella sua maturità, un professionista e un cultore dell'amore impossibile, cioè dell'amore solo sognato. Era un visionario anche in amore. Percorre la Georgia, la Carolina, il Kentucky, vorrebbe fare a piedi coast to coast, però alla fine ciò che lo rende tenero si arrende, cede e prenderà un treno per Los Angeles pagando il biglietto. I suoi recite, come dicevo, hanno molto successo e lui vende le sue poesie al dettaglio, una a una, foglio per foglio, mentre va in giro, e le comprano. Fa una grande attività anche politico-poetica contro l'urbanizzazione, contro l'avidità, contro il razzismo, e si rifà a un Cristo socialista. A più di 30 anni, finalmente, accosta una donna. Si innamora e conosce questa emozione che si figurava, ma non aveva mai provato, volersi bene in due, davvero, non solo sognando. Ed è un'esperienza che lo trasfigura e lo rende ancora più animato durante le sue recitazioni. E un giorno, mentre sta facendo una sua performance, in un intervallo, viene a sapere che la sua amata si è sposata con un altro. Continua più disperatamente la sua vita sulla strada. In verità lui voleva stare a scrivere, però la povertà non gli consentiva di smettere con queste tournée che erano l'unica cosa per la quale poi alla fine veniva apprezzato. Qualche anno dopo però trova un'altra ragazza, una ragazza giovane di 20 anni, che gli vuole davvero bene. Si sposano e fanno 2 figli, ma è proprio il momento in cui lui sta cambiando, sta diventando violento. La sua visione sta virando nella paranoia, vede nemici dappertutto, vivi e morti. Ed è infelicissimo, finché a 52 anni, esausto, deluso, forse da questa missione troppo grande che si era data, si uccide. È il 1931. Edgar Lee Masters scrisse la sua biografia e Allen Ginsberg gli dedicò una poesia. Vedo la tua morte. Sei seduto in bretelle sul letto. L'ombra della mano ti solleva una pistola alla fronte. L'ombra si inarca e cade a terra. In verità è una trasfigurazione poetica perché lui si avvelenò, ed è in suo onore e in memoria di questo poeta così poco tradotto in Italia che oggi la nostra musica sarà musica di Scott Joplin, ovvero un suo fratello in musica, questo grande autore di ragtime. E in questo poeta mi incanta e mi impressiona la varietà dell'ispirazione. Lui passa da questa filastrocca indiavolata, che si chiama Sermone Negro, Simon Legree. Oh, ecco, la parola negro, appunto in questa traduzione del 1952, è di un tempo più innocente, quando ancora gli italiani non erano ferocemente razzisti ancora, e quindi si poteva usare questa parola senza che avesse un senso dispregiativo. E dicevo, questa filastrocca su Simon Legree, lo schiavista per eccellenza, l'aguzzino e assassino che appare nel libro La capanna dello zio Tom. E in questa poesia lui alla fine, Simon Legree, va all'inferno, dove si troverà benissimo con Satana e giocheranno insieme d'azzardo, in eterno. Legree faceva sfoggio d'una cravatta di pelle di serpe, d'una camicia rossa come sangue. Legree aveva una barba da caprone, peloso il collo da bove e gli occhi, color sporcizia, le guance troppo tonde, bianche come ventre di pesce, i grossi denti lunghi e una fame da lupo. Mangiava carne cruda a ogni pasto. Aveva il pugno grosso come un maglio per fare poltiglia dei poveri negri che dicevano bugie. Era certo uno stregone travestito, ma se ne andò giù al diavolo. Portava stivaloni a tutta gamba e passava fiumi a guado per catturare i suoi schiavi fuggiti. Ma se ne andò giù al diavolo. Batté a morte il povero zio Tom, che pregò per Legree fino all'ultimo respiro. Poi lo zio Tom fuggì verso l'alto santuario luminoso e nuovo. E Simon Legree batté le calcagna e digrignò i denti. L'ho ucciso e non me ne curo. Pigliò calci un levriere, tirò giù una bestemmia. E poi si inoltra attraverso la sua cantina che comunica direttamente con l'inferno fino all'inferno. Vide il diavolo su un ampio trono verde, rodere carne da un grande osso di prosciutto e disse al signor diavolo: «Vedo che hai molto da mangiare. Un osso di prosciutto rosso è senza dubbio squisito. Vedo che hai piedi di leone. Vedo che bevi il tuo vino velenoso, sangue e trementina bruciante». E il diavolo disse a Simon Legree: «Mi piace il tuo stile così perverso e franco. Siedi e dividi il mio trono con me, e abbaiamo e gozzovigliamo». Ed essi siedono e digrignano i denti, e portano in testa una corona di luppolo. Fanno scambio di soldi e lanciano dadi, giocano a poker, e il vecchio Legree è grosso e tondo. Mangia il fuoco, beve il vino, sangue e trementina bruciante. «Giù, giù col diavolo! Giù, giù col diavolo! Giù, giù col diavolo!» Naturalmente, essendo più che una filastrocca, una ballata, lui lo accompagnava con la chitarra, essendo anche un eccellente suonatore, un menestrello. Ah, sento dei passettini leggeri per le scale. Questo è sicuramente Robert, è l'unico che viene qua, l'ortolano astrologo di Capo Finisterre, che viene a parlarci delle stelle. Robert? No, non è nessuno. Oh, è sempre più in ritardo sto ragazzo. Vabbè. Rachel Lindsay. D'un tratto, ecco che scrive questo poema d'amore delicatissimo, musicale, ampio, che si chiama L'usignolo cinese. È la storia di una visione. Siamo a San Francisco all'inizio del Novecento. L'America è un paese di stranieri, tutti immigrati, a parte i nativi che sono stati sterminati come dagli invasori, come le formiche nere vengono mangiate dalle formiche rosse. E fra i tanti emigranti chiassosi ci sono i silenziosi, i cinesi, tantissimi, che lavorano in silenzio. Sono i più organizzati, i più puliti, non sentono la stanchezza, si direbbe. E in questa poesia intitolata L'usignolo cinese siamo a San Francisco in una lavanderia dove c'è il laborioso Chang, il lavandaio, che stira, stira, stira. «Amico Chang», io dissi, «San Francisco dorme il sonno dei morti, conclusi la dissolutezza, la lascivia, il gioco. Perché passi la notte a stirare? Il tuo grosso orologio parla con voce di morte, mentre ombre simili a mostri sgranano occhi di fuoco e strisciano. Che cosa è di meglio del sonno per l'uomo?» «Ti voglio confidare un segreto», disse Chang. «Il mio petto è soddisfatto di visioni e il mio usignolo immortale canta da Shanghai». Accese un'esca profumata, lunga e nera. Allora l'altero idolo grigio nell'angolo si mosse. Sopra il suo polso apparve un uccellino grigio. E questo fu il canto dell'uccellino grigio. «Dov'è la principessa, eternamente amata, che fece Chang primo tra i re degli uomini?» E l'idolo nell'angolo si mosse di nuovo e il cane intagliato, accovacciato fra le sue braccia, si svegliò. Abbaiò una nube di fumo che si snodò, si ruppe, si raccolse presso il tavolo da stiro e lì, sopra la grande tavola bianca, si levò una dama cinese d'alto lignaggio dallo sdegnoso viso rosatea, fascinatore, e scostò dalla faccia il velo scintillante con un fanciullesco sorriso per Chang e per me. Le pareti crollarono, sbocciò la notte, il tavolo biancheggiò sotto una pergola piena di luna, mentre Chang, il viso intagliato nella pietra, continuava a stirare tutto solo. E così ella cantò al laborioso uomo Chang: «Hai forse dimenticato che nel fondo delle ere io fui l'amor tuo, laggiù sulla sabbia, sulla spiaggia battuta dal vento in terra di Cina, quando tutto il mondo beveva sangue dai teschi d'uomini e buoi, aveva spade e mazze di pietra? Noi prendevamo il nostro tè in Cina, sotto i sacri alberi profumati, e questo uccello grigio, nella fresca primavera d'amore, ammaliava il mondo con le sue liete canzoni. Ricordi, ere più tardi, il mondo che infine nascemmo a possedere, tu, erede del trono giallo, e noi, orgogliosi dei figli di Han, copiammo libri di profonda saggezza, intagliammo la giada. Ricordo, ricordo, la primavera risorgeva sempre», disse l'usignolo cinese. Il mio cuore era pieno di stupore e di sogno. Ok, il narratore è Vecel che parla. Il mio cuore era pieno di stupore e di sogno. Sebbene vedessi tremolare i lampioni d'Occidente, sebbene l'alba portasse il giorno d'Occidente, sebbene Chang fosse un lavandaio che stirava e stirava. Farmiste con le strade e con i vicoli, nubi demoniache attraversavano antiche vallate. E allora l'uccello di bronzo cantò per te e per me. Camminavamo soli, alti e liberi i nostri cuori. Avevo un nome d'argento. Avevo un nome d'argento. Ricordi il nome che gridasti sul mare in tumulto? Chang non si volse alla dama alta e sottile. Si chinò sopra il lavoro, stirando, stirando. Ma l'usignolo sulla spalla parlava per lui. Amor mio, amor mio, amor mio, diceva l'usignolo cinese. Draghi, draghi, draghi cinesi, castagnole rosse e castagnole verdi, e draghi, draghi, draghi cinesi. Allora la dama si volse a Chang, all'amor suo, e disse: hai forse cuore di non ricordare quell'alba turchese, finché un dio dei draghi volò ai nostri piedi, in spuma d'arcobaleno, re di bellezza e di tempesta e tuono. Un drago di bella avventura e prodigio, salimmo sul dorso di quello schiavo regale. Turbinammo verso le cime e le montagne infocate, alla nostra segreta casa d'avorio giungemmo. Guardammo dall'alto la bella distesa ricolma di vento, dove i draghi volavano, in schiere luminose. Quando le mani tu mi baciasti, e i capelli e i piedi, quando piangesti per il nuovo dolore del tuo cuore, qual era il mio nome nella nebbia dei draghi? Dolore e amore, gloria e amore, cantava l'usignolo cinese. E ora l'idolo si interpose con il suo canto. Fuoco morente, usignolo di Chang, anima di Chang, ricordi? E anche l'uccello, così stranamente gaio, cantò come per l'anima dell'uomo che stirava e stirava sotto la pergola oscura. E disse: ho dimenticato. Io so vagamente che c'erano eroi in antico, affanni più che il cuore ne possa sostenere. Anni e anni che ricordo soltanto a metà. L'uomo è una torcia. E poi in breve cenere, maggio e giugno, poi il morto dicembre e poi ancora giugno. Io ricordo, sotto pergole ombrose, ardenti volti d'amanti, protesi l'uno verso l'altro. Amore mio, si dicevano l'un l'altro. Parlavano, io credo, di pericoli passati. Parlavano, io credo, di pace alla fine. Una cosa io ricordo. La primavera rifioriva sempre, disse l'usignolo cinese. La guardiana del faro. Qui capitaneria di porto. Abbiamo intercettato l'ortolano astrologo Robert de Saint-Loup in California, nella città originariamente chiamata El Pueblo de la Iglesia de Nuestra Señora la Reina de los Angles del Portiúncola. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Robert? Ciao, Barbara! Ma dove sei finito? Ma ti dobbiamo ricchiappare come Pinocchio! Sono finito nella lontana California. Sono in una fiera di ortolani, a Los Angeles. C'è un sole bellissimo. Ma viaggi spesso? No, questa è la prima volta che esco da Finisterre, veramente. Infatti sono anche un po' emozionato. Che sei andato a fare, scusa? Mi hanno invitato perché mi hanno sentito alla radio e perché ci sono in realtà molte cose in comune. Ah, no, ma scusa, cultura. No, uno piccolo inciso. Cioè, a te ti hanno invitato, a noi no, no. Mi comincia a venire come quella l'invidia del creatore per il suo creato. Scusa, ti abbiamo fatto noi. Sei un po' gelosa. Beh, insomma, e quindi ti hanno detto: senta, lei l'abbiamo sentita, ci ha affascinato, venga alla fiera dell'agricoltura. Sì, Barbara, mi hanno invitato non solo come ortolano, ma anche come astrologo, perché ci sono tante cose in comune tra astrologia e agricoltura. Tutte e due le cose intanto sono basate su cicli, e tutti e due i cicli iniziano con l'equinozio di primavera. Si risveglia la natura e inizia un nuovo ciclo zodiacale con l'ariete, che è il segno bambino, così impaziente, energico, è il principio creativo maschile, come se fosse il nuovo seme. Poi dopo l'ariete c'è il toro, che è l'aratura, che è un'attività lenta e paziente, che rende possibile una nuova semina. È un po' il principio creativo femminile, la grande madre terra. Poi abbiamo i gemelli, che per loro natura natura sono leggeri, ariosi, dinamici, sono un po' quelli che spargono il seme sul terreno arato. Poi il cancro, il segno femminile ed intimo per eccellenza, rappresenta un po' la germinazione. All'interno del seme il primo germoglio di vita nasce e si prepara a fiorire. Poi il leone, trionfale, fiero, orgoglioso, anche un po' snob, che è l'esplosione di vita dei frutti della terra. Oh, senti, no, Robert, mi spieghi meglio perché il leone è un po' snob? Beh, il leone è nato per stare sul palcoscenico, è accentratore per eccellenza, è egocentrico, è trionfante, ed è un po'... E sprezzante anche. È molto sprezzante, ed è proprio il segno del sole, quindi è il segno della maturazione, tutti i campi esplodono di fiori, frutti sugli alberi, è proprio la massima espressione trionfale della natura. E dopo il leone abbiamo la vergine, che è attenta, meticolosa, precisa, pure un po' pignoletta certe volte. Ed è il segno della raccolta dei frutti, della selezione, della cernita. E poi arriva la bilancia, che è il momento proprio di fare il bilancio, di vedere cosa si è raccolto, se è andata bene o male, cosa può essere migliorato e come. Poi arriva lo scorpione, che è il segno più misterioso poi dello zodiaco, il segno della caduta delle foglie, del tempo della morte e della risurrezione, il segno dei grandi passaggi, che apparentemente tutto sembra finito e invece si prepara a rinascere. Poi c'è il Sagittario, che è il segno dell'avventura e dei viaggi lontani, che è proprio la conquista di nuovi terreni da coltivare. Dopo il Sagittario siamo ormai a dicembre, arriva il Capricorno, che è severo e taciturno, attento alle cose che durano. Il Capricorno è proprio quello che fissa gli obiettivi per il nuovo anno. Dopo il Capricorno arriva l'Acquario, innovativo, inventivo e anche un po' imprevedibile, che è un po' il segno che lancia le nuove tecniche di coltivazione per il nuovo anno. Poi arrivano i Pesci, mistici, sensibili, intuitivi. Sono il fertilizzante, sono le acque del Nilo che esonda e cosparge di limo il terreno. È la fine di un ciclo che prepara l'inizio del nuovo ciclo. E tutto inizia nuovamente dall'Ariete. Bello, vero? Sembra una bella coincidenza. Secondo me non lo è. Sono piuttosto due orchestre che eseguono una stessa partitura. Ah, senti, Robert, mentre tu te ne stavi in giro per l'America fregandotene di noi, e intanto nella redazione di Radio 24 è nata una bambina, cioè non proprio redazione, a casa sua, anzi in clinica, che è la figlia di Alessandro Chiappini, il nostro marinaio di terra. Sì, sì, in realtà ho già dato un'occhiata. Martina è intanto uno scorpione, però ho anche visto che ha un ascendente sagittario. Quindi intanto Scorpione è un segno d'acqua, per cui sarà una bambina estremamente intuitiva ed estremamente sensibile, però questo ascendente in Sagittario le dà un grande ottimismo, una grande energia vitale e anche una grande curiosità, per cui il Sagittario è proprio il segno esploratore, per cui sicuramente sarà molto molto estroversa e molto socievole. Tutto il suo babbo? Tutto il suo babbo, però sicuramente poi il sole in Scorpione le dà anche una grande determinazione e una grande guai a chi la contraddice e guai a chi le fa un torto, perché se lo ricorderà a lungo, è molto giusto lo Scorpione. Tra l'altro, guardando anche le altre case della carta natale di Martina, mi viene da dire che la sua affermazione sarà in una professione simile a quelle del papà, seguirà in qualche modo le orme paterne. Si vede anche una grande predisposizione verso il sonoro, verso l'audio, forse la musica. Comunque avrà un grande orecchio musicale. E adesso Marco Fabio Polloni, poeta, antiquario, misterioso e vagabondo, ci legge dei sonetti. I suoi sonetti dal libro Il puttaniere arcadico, pubblicato da Ponte alle Grazie. I romani dovrebbero sapere che c'è una chiesa a Piazza Sant'Eustachio, che è appunto la chiesa di Sant'Eustachio, che è quel santo a cui apparve Cristo sotto forma di cervo. E questo è il protagonista dei sonetti seguenti. Storia d'Eustachio. Sant'Eustachio, quando erano scapato e contava gli dèi come stornelli, andava sempre a caccia come quelli che non c'hanno lavoro stipendiato. E dentro una macchietta d'arberelli gli capita sto fatto smisurato de trovacce una bestia sopra un prato che gli fece rizzà tutti i capelli. Un cervo con uno sguardo da feroce e sulla fronte una specie de foresta gli disse con un gran rombo de voce: guardame che c'ho sopra la testa, ste corna qua che vedi sono a croce. E la frase che disse è proprio questa. Ustacchio, non tirà, che sono Cristo, gli strilla l'animale da lontano. Un cervo come me non l'hai mai visto, e piega se ginocchia da pagano. E mo, se tu non dubiti che esisto, te devi bene o male fa cristiano, e pensa che fortuna se t'assisto te faccio santo, martire romano. A ritornato Ustacchio dalla caccia, se mise a raccontare tutto commosso a tutta l'osteria della Beccaccia. Ma chi? Quel cervo con la croce addosso? Quello basta che serva la pellaccia, ti racconta qualunque paradosso. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.